Capitolo 7. I bisolitari. E per un terribile momento Atreyu fu colto dal dubbio che Igramul lo avesse dopo tutto ingannato, perché quando tornò in sé si ritrovò ancora nel deserto di pietra. Si sollevò con fatica e in quel momento si avvide che era sì in una selvaggia terra montagnosa, ma del tutto diversa. Il paesaggio pareva fatto tutto di grosse lastre di roccia, di un colore rosso e ruggine, ammucchiate una sull'altra e disposte in modo da formare ogni sorta di singolarissime torri e piramidi. Tra l'una e l'altra il terreno era coperto di erbe e bassi cespugli. Su tutto regnava una calura soffocante. Quella terra era immersa in una radiosa, addirittura violenta luce solare che accecava. Atreyu levò una mano a schernirsi gli occhi dal sole e vide, alla distanza forse di un miglio, una porta di pietra dalla forma alquanto irregolare. La volta dell'apertura, formata da lastre orizzontali, è alta forse un centinaio di piedi. Che quello fosse l'ingresso dell'oracolo meridionale? Fin dove poteva giungere il suo sguardo, dietro la porta non si vedeva che una pianura deserta senza fine. Non una costruzione, non un tempio, non un altare, nulla, insomma, che potesse fare pensare alla residenza di un oracolo. Mentre stava ancora riflettendo su di ciò che avrebbe potuto fare, udì all'improvviso una fonda voce bronzia: «Atreyu!» E poi una seconda volta: «Atreyu!» Si volse e da dietro una delle rosse torri di roccia vide sbucare il candido drago della fortuna. Il sangue gli colava dalle ferite ed era così debole che riusciva solo a fatica a trascinarsi stancamente. Tuttavia gli strizzò allegramente uno dei suoi occhi di rubino e disse: «Non ti meravigliare troppo di vedermi qui, Atreyu. Mentre giacevo nella ragnatela ero davvero come paralizzato, in grado però di udire ciò che Igramul ti ha detto, e quindi feci il mio bravo ragionamento. Dopotutto anch'io sono stato punto da lei. Perché non dovrei allora fare uso io pure del suo segreto, di quel segreto che lei ti ha confidato? Così le sono sfuggito.» Atreyu fu molto contento. «Mi dispiaceva molto doverti lasciare in preda a Igramul», gli disse, «ma che altro avrei potuto fare?» «Niente», rispose il drago, «ma mi hai ugualmente salvato la vita, anche se ho dovuto fare uso della mia iniziativa.» E tornò a strizzargli l'occhio, questa volta l'altro. «Salvata la vita», replicò Atreyu, «per un'ora, che di più non ci rimane. Sento il veleno di Igramul e ad ogni istante il suo effetto si fa più forte.» «Per ogni veleno c'è il suo antidoto», rispose il drago bianco. «Vedrai che tutto andrà bene.» «Non riesco a immaginare come», fece Atreyu. «Neppure io», replicò il drago, «ma proprio questo è il bello. Da questo momento tutto ti riuscirà. Dopotutto, non devi dimenticare che io sono un drago della fortuna. Anche quando me ne stavo impigliato nella rete, neppure allora ho abbandonato del tutto la speranza. E come vedi, avevo ragione.» Atreyu sorrise. «Dimmi, perché ti sei fatto trasportare proprio qui e non in un luogo migliore dove avresti potuto trovare guarigione?» «La mia vita ti appartiene», rispose il drago. «Se la vuoi accettare. Ho pensato che avresti avuto bisogno di una cavalcatura per la grande ricerca, e vedrai, è tutta un'altra cosa grattare il terreno su due zampe avanzando piano piano o anche andare al galoppo su un buon cavallo e invece volare come il vento per tutti i cieli in groppa a un drago della fortuna. D'accordo? D'accordo. A proposito», aggiunse il drago, «io mi chiamo Fukur.» «Bene, Fukur», rispose Atreyu. «Ma mentre noi stiamo qui a parlare, scorre via il poco tempo che ci rimane. Devo fare qualcosa. Ma cosa?» «Aver fortuna», rispose Fukur. «Che altro?» Ma Atreyu non lo ascoltava più. Era caduto e giaceva immobile, avvolto nelle morbide curve del corpo del drago. Il veleno di Igramul stava facendo il suo effetto. Quando Atreyu, chissà mai quanto tempo più tardi, riaprì di nuovo gli occhi, non vide dapprima nient'altro che una faccia, ma una faccia davvero stranissima, china sulla sua. Era la faccetta più grinzosa che avesse mai visto in vita sua, ma grande all'incirca quanto il suo pugno e di un colore marroncino, come una mela al forno, con degli occhietti che brillavano come stelle. In testa portava qualcosa che somigliava ad una cuffietta di foglie secche. Poi Atreyu sentì che gli veniva messo davanti alle labbra un minuscolo boccalino. «Bella medicina, buona medicina», mormoravano le labbruzze grinzose nel visetto tutto increspato. «Bevi, bevi, piccino mio, bevi che ti fa bene». Atreyu assaggiò. Il liquido aveva un gusto strano, per metà dolce e per metà asprigno. «Che ne è del drago bianco?» fu tutto quello che riuscì a dire. «Tutto a posto». Tutto a posto, rispose la vocetta con un borbottio leggero. Non preoccuparti, ragazzino mio, guarirà. Guarirete entrambi. Il peggio ormai lo avete passato. Bevi ora, bevi. Atreyu beve ancora un sorso e subito cadde nel sonno, ma questa volta era il sonno profondo e ristoratore della guarigione. Il campanile batté le due. Bassiano non ce la faceva più a resistere, doveva assolutamente andare al gabinetto e con urgenza. Era già un bel po' che ne aveva bisogno, ma era stato davvero incapace di smettere la lettura e per di più un pochino di paura ce l'aveva all'idea di dover scendere giù nella scuola. Si diceva che non c'era proprio motivo di aver paura, la scuola era chiusa e deserta, non c'era nessuno che lo potesse vedere, eppure aveva ugualmente paura. Come se fosse stato il casseggiato stesso della scuola, lì pronto a osservarlo. Ma tutti quei bei ragionamenti non servivano a nulla, insomma, doveva proprio. Posò il libro aperto, con la parte interna sulla stuoia, si alzò e si diresse verso la porta del solaio. Col cuore che gli batteva forte, restò un momento in ascolto. Tutto era silenzio. Fece scorrere all'indietro il catenaccio che aveva tirato per maggior sicurezza e lentamente girò la chiave nella toppa. Quando abbassò la maniglia, la porta si aprì con un tremendo scricchiolio. Scivolò fuori con solo i calzini ai piedi e lasciò la porta aperta per evitare di dover fare una seconda volta dell'inutile baccano. Poi si infilò giù per le scale e arrivò al primo piano. Davanti a lui si stendeva il lungo corridoio con le file delle porte tutte dipinte dello stesso color spinacio. I gabinetti degli alunni erano all'estremità opposta del corridoio. Ora non ce la faceva proprio più e così si mise a correre quanto più in fretta poteva. Raggiunse il posticino Salvatore proprio all'ultimo momento. Mentre sedeva sulla tazza, si trovò a pensare perché gli eroi delle storie che si leggono non hanno mai a che fare con problemi di questo genere. Una volta, quando era ancora molto piccolo, durante la lezione di religione, aveva persino domandato se il Signore Gesù non avesse dovuto anche lui correre al gabinetto come una persona qualunque, dal momento che aveva anche mangiato e bevuto, proprio come una persona qualunque. Tutta la classe era esplosa in una grande risata rumorosa. E l'insegnante di religione gli aveva scritto una nota di biasimo sul registro di classe per contegno sconveniente, ma una risposta alla sua domanda Bastiano non l'aveva avuta. Eppure non aveva davvero avuto intenzione di comportarsi in maniera sconveniente. Probabilmente, si disse ora Bastiano, queste cose sono troppo poco importanti perché se ne parli nelle storie. Sebbene per lui qualche volta potessero diventare di disperata importanza, tanto da vergognarsene. Una volta finito, tirò la catenella e stava giusto per uscire quando all'improvviso udì dei passi fuori in corridoio. Le porte delle classi venivano aperte e richiuse ad una e i passi si facevano sempre più vicini. Il cuore di Bastiano batteva così forte che gli pareva di sentirselo pulsare nel collo. Dove avrebbe potuto nascondersi? Restò immobile, come di sasso, lì dove si trovava. La porta dei gabinetti si aprì fortunatamente in modo da nascondere Bastiano. Entrò il bidello che, uno dopo l'altro, ispezionò tutti gli scomparti. Quando arrivò a quello dove correva ancora l'acqua e la catena continuava a ciondolare, l'uomo restò per un momento perplesso. Brontolò qualcosa fra sé, ma poi, quando si accorse che l'acqua smetteva di scorrere, alzò le spalle e se ne andò fuori. I suoi passi riecheggiarono giù per le scale. Bastiano, che per tutto quel tempo non avevo osato nemmeno fiatare, ora tirò un profondo respiro. Quando fece per uscire, si accorse che gli tremavano le ginocchia. Cauto e più rapido possibile, scivolò lungo il corridoio con le sue molte porte color spinacio, infilò la scala e fu di nuovo su, nel solaio. Soltanto quando si fu rinchiusa la porta alle spalle ed ebbe tirato il catenaccio, la tensione che lo teneva si allentò. Con un profondo sospiro si lasciò ricadere sul suo giaciglio di stuoie e riprese in mano il libro. Quando si risvegliò, Atreio si sentì fresco come una rosa e pieno di energie. Si sollevò a sedere. Era notte, la luna brillava chiarissima e Atreio vide che si trovava nello stesso punto dove era crollato, accanto al drago. Anche Fukur giaceva lì disteso come prima, ma ora il suo respiro era profondo e regolare e pareva che dormisse sodo. Tutte le sue ferite erano state fasciate. Atreio si accorse che anche la sua spalla era stata bendata nello stesso modo, cioè con una benda di garza, bensì con filamenti di erbe e di piante. A pochi passi di distanza si apriva nella roccia una piccola grotta e dal suo ingresso veniva un debole raggio di luce. Senza muovere il braccio sinistro, Atreio si sollevò cauto e si diresse verso l'apertura della grotta che era molto bassa. Si chinò e vide all'interno una stanza che pareva un laboratorio d'alchimista, tutto in miniatura. Sul fondo della stanza, in un camino aperto, crepitava un allegro focherello. Dappertutto erano sparsi vasi, barattoli e bottiglie dalle forme più strane. Su uno scaffale stavano allineati fasce di erbe secche di diversa qualità. Il minuscolo tavolo nel mezzo della stanza e il resto dei mobili parevano fabbricati con legno di radica. Nel complesso quell'abitazione aveva un aspetto quanto mai gradevole e simpatico. Solo quando udì un colpetto di tosse, Atreio si accorse che davanti al camino c'era un omino piccino, sprofondato in una poltrona. In testa portava una specie di cappellino fatto di legno di radica, dalla forma di un fornello di pipa capovolto. La faccia era dello stesso color marroncino di quella che aveva visto sopra di sé al momento del suo risveglio, ed era altrettanto grinzosa. Ma ora l'omino aveva sul naso un grosso paio di occhiali e i suoi lineamenti parevano più tesi e preoccupati. Stava leggendo in un grosso libro che teneva appoggiato in grembo. Poi, da un'altra stanza, dietro la prima, arrivò vacillante una seconda figurina in cui Atreio riconobbe immediatamente la creatura che si era presa cura di lui prima che si addormentasse. Solo ora si accorse che era una donnina. Oltre alla cuffietta di foglie, portava esattamente come l'ometto seduto presso il camino una specie di tonaca da frate, anch'essa fatta di foglie appassite. La donnina canticchiava fra sé a voce bassa. Con aria contenta e soddisfatta si strofinò le mani e si diede da fare intorno ad un pentolone che pendeva sopra il fuoco. Entrambe le figurine potevano essere alte quanto una gamba di Atreio, dal piede al ginocchio. Era evidente che quei due facevano parte della complicata e ramificatissima famiglia degli ignomi, anche se questi erano degli esemplari piuttosto inconsueti. «Donna!» esclamò l'omino corrucciato. «Togliti dalla luce, mi disturbi nel mio studio!» «Oh, tu con i tuoi studi!» rispose la donnina. «Che vuoi che me ne interessi?» «L'importante ora è che presto sia pronto il mio elusir della salute. Quei due là fuori ne hanno bisogno.» «Quei due là fuori», rimbeccò l'omino seccato, «avranno ancora più bisogno dei miei consigli e del mio aiuto.» «Sarà», ribatté la donnina, «ma prima devono rimettersi in salute. So, vecchio, fa posto.» Brontolando, l'omino si spostò con la sua poltrona un poco più lontano dal fuoco. Atreio si schiarì la voce per avvertire della sua presenza. La coppia di gnomi si voltò a guardarlo. «Eccolo qua, che sta benone», fece l'omino. «Adesso tocca a me.» «Neanche per idea», rimbeccò di nuovo la donna. «Se è guarito o no, lo decido io. Tocca a te quando ti dico che tocca a te.» Poi si volse ad Atreio. «Ci farebbe molto piacere invitarti a entrare, ma per te è un po' troppo stretto. Un momentino, vengo subito fuori.» Pestò ancora nel mortaio qualcosa che poi gettò nel pentolone. Infine si lavò le mani, li asciugò nella tonaca, mentre diceva all'omino: «E tu stai qui buono, a sedere finché ti chiamo. Eghibuche, capito?» «Va bene, Urgula, va bene», brontolò l'omino. La donnina uscì dalla grotta e, ad occhi socchiusi, dal basso in alto, osservò ben bene Atreio con aria indagatrice. «Beh, ci pare che vada già bene, eh?» Atreio assentì col capo. La donnina si arrampicò su una sporgenza della roccia che era proprio all'altezza del viso di Atreio e si mise lì a sedere. «Niente più dolori?» si informò. «Non che valga la pena di parlarne», rispose il ragazzo. «Che cosa vuoi dire?» lo investì la donnina con occhi scintillanti. «Ti fa male, sì o no?» «Fa ancora male», spiegò Atreio, «ma non importa». «Ma importa a me», sbuffò Urgula. «Questo sì che fa piacere, sentire il paziente dire al medico che cosa importa o non importa». «Che cosa ne capisci tu di queste cose, muso verde?» «Deve fare ancora male se deve guarire. Se non sentissi più nulla, vorrebbe dire che il braccio è già morto». «Perdono», esclamò Atreio, che si sentiva come un bambino che ha preso un rabbuffo. «Volevo soltanto dire, cioè, insomma, volevo ringraziare». «Ah, storie!» gli tagliò la parola in bocca, Urgula rudemente. «Dopotutto sono una guaritrice, no? Ho fatto soltanto il mio dovere professionale. E poi Engivuk, il mio vecchio, ha visto il pentakel che porti al collo. Da quel momento non abbiamo avuto alcun dubbio». «E Fukur?» domandò Atreio. «Come sta?» «E chi sarebbe Fukur?» «Il drago bianco della fortuna». «Ah, capito. Non so ancora. Se ne è beccato un po' più di te, di veleno. In compenso ha anche una pelle più dura. Ce la dovrebbe fare. Sono quasi del tutto sicura che si riprende. Ha solo bisogno di un altro po' di riposo». «Ma dove diavolo vi siete presi quel veleno? E da dove arrivate così all'improvviso? E dove volete andare? E chi siete poi?» Engibuke era nel frattempo uscito anche lui dalla grotta ed era rimasto ad ascoltare le risposte che Atreio dava alla vecchia Urgula. Infine si fece avanti e tuonò: «Chiudi il becco, donna, adesso tocca a me». Poi si volse ad Atreio, si levò il cappellino a forma di pipa, si grattò un po' la testolina calva e disse: «Non prendertela male per il suo modo di fare, Atreio. La vecchia Urgula qualche volta è un po' scorbutica, ma ha un cuore d'oro. Il mio nome è Engivok. Ci chiamano anche i bi solitari». «Già sentito parlare di noi?» «No», confessò Atreio. Engivok parve leggermente offeso. «Beh, non fa niente», sospirò. «Dopotutto, tu non frequenti gli ambienti scientifici, altrimenti ti avrebbero già detto da un pezzo che non potrei trovare miglior consigliere di me se vuoi andare da Uyulala all'oracolo meridionale. Sei proprio arrivato all'indirizzo giusto, figliuolo». «Non darti tante arie», interloquì la vecchia Urgula. Poi discese dal suo sedile e scomparve all'interno della grotta. Engivuke finse di non aver sentito. «Posso spiegarti ogni cosa», continuò imperterrito. «Ho studiato il problema per diritto e per rovescio, in tutti i suoi particolari, per tutta la vita. Anzi, proprio a questo scopo ho impiantato il mio osservatorio. Fra breve pubblicherò un'importante opera scientifica sull'oracolo, titolo L'enigma di Uyulala sciolto dal professore Engivuke. Suona mica male, eh? Disgraziatamente mi mancano ancora un paio di particolari. Tu mi potresti aiutare, ragazzo mio? Un osservatorio?» domandò Atreio, che quella parola non l'aveva mai sentita. Engivuke annuì pieno di orgoglio, con gli occhietti scintillanti, con un gesto della mano invitò Atreio a seguirlo. Fra quelle enormi lastre di pietra correva a zigzag uno strettissimo sentiero. I molti punti, dove saliva ripido, erano state intagliate delle tacche nella pietra, ma erano così piccine che Atreio naturalmente non poté servirsene. Lui le saltò semplicemente con un unico grande passo, e nonostante questo aveva il suo bel da fare a tener dietro al piccolo gnomo che gli trotterellava rapido davanti. «Bella notte di luna oggi», udì che diceva Engivuke. «La potrei vedere?» «Chi?» domandò Atreio. «Uyulala?» Ma Engivuke fece un gesto impaziente di diniego e continuò ad avanzare col suo passetto tremulo e rapido. Finalmente arrivarono alla sommità della torre rocciosa. La cima era piatta, ma da una parte si levava una specie di parapetto naturale, formato da un'unica lastra di pietra. nel mezzo della quale c'era un buco, evidentemente intagliato con acconci utensili, e davanti al buco un piccolo cannocchiale posato su un treppiedi fatto in legno di radica. Engebuk avvicinò l'occhietto e guardò, poi regolò lo strumento girando viti e rotelle varie. Infine annuì soddisfatto e invitò Atreio a guardare lui pure attraverso la lente. Questi seguì l'invito, ma per farlo dovette stendersi per terra e, puntellandosi su un gomito, guardare attraverso la lente. Il cannocchiale era puntato sulla grande porta di pietra e precisamente in modo da inquadrare alla perfezione la parte inferiore del pilastro di destra. E fu allora che Atreio vide che accanto a quel pilastro c'era una sfinge possente, seduta ritta e immobile nel chiaro di luna. Le zampe anteriori su cui poggiava erano artigli di leone, la parte posteriore del corpo era invece quella di un toro. Sulla schiena portava enormi ali d'aquila e il volto invece aveva le sembianze di un essere umano, ma solo per i lineamenti, perché in quanto all'espressione, quella no, non era davvero umana. Era molto difficile distinguere se quel volto sorridesse o riflettesse un'immensa e incommensurabile tristezza, oppure ancora la più perfetta indifferenza. Dopo che Treju l'ebbe osservata per un bel po', finì per vederla colma di un'infinita crudeltà e malvagità, ma subito dopo dovette correggere la sua impressione e alla fine non ci trovò che pura allegria. Lascia perdere, udì dietro l'orecchio la voce dello gnomo. Non riuscirai comunque a capirne nulla. Succede così a tutti, anche a me. Ho consumato metà della mia esistenza a osservarla e non sono ancora arrivato ad una conclusione. Ora l'altra. Girò un'altra rotellina e l'immagine si spostò, passando per il divano aperto della grande porta, dietro la quale si stendeva solo un vuoto e piatto infinito, fino a portare davanti all'occhio di Atreio il pilastro, dove, seduta nella stessa identica posa dell'altra, c'era una seconda sfinge. Il corpo possente scintillava stranamente pallido e come argento liquido nella luce lunare. Pareva intenta a fissare senza muoversi la prima sfinge, così come la prima aveva lo sguardo fisso nella sua direzione. «Sono statue?» domandò Atreio a bassa voce, senza poter staccare l'occhio da quella vista. «Oh no!» rispose Engibuke e ridacchiò. Sono vere, autentiche sfinge viventi, e come se sono viventi. Basta, per oggi hai già visto abbastanza. Vieni, torniamo giù, ti spiegherò ogni cosa. Oh no, rispose Engibok e ridacchiò. Sono vere, autentiche sfinge viventi. E posò una mano davanti alla lente, così che Atreio non riuscì più a vedere nulla. In silenzio i due ritornarono sui loro passi.